traducete quell'istante in battiti più piccoli. A quanti secondi dall'inizio del giorno corrisponde l'orario della creazione del regno? Se completate correttamente il codice del tempo, il calcolo verrà eseguito automaticamente. Ore è uguale a 15. Minuti è uguale a ore moltiplicate per x. Secondi è uguale a minuti moltiplicati per x. Ritorna secondi. Per completare il codice, cosa va inserito al posto di x?